storia, sta guerra mischina da tanti anniversari. Quelli vogliamo prima la libertà alenie, strappano a giustizia, pigliendosi a te. E a moglie che sì, per la vita disprezza, a unta i fuggini, a vittoria si urisce. Mi penso preferisce la bo. E forse come me i gridi a tempo fa, figlioli di Uge, di luci incaricati, ma per elli a lotta, l'alba di a vittoria, un soccorio e mare, soprattutto i denari. Senza nomi scordari, vittime di lode, indo da ogni verde, sordi a barbaria. Questa roccia di droga, un potere guastato, un sdegno presidente, paghi tu lo riscato. E cantendo per te, vorremmo rammentare che tu scombatti in grido per tutti i libertari. Stai di rida, urla di te, hai niente di stavera, rompemmo le catene che tu possi campa, questa razza di tomba, in rime d'ancor, con un nome di bomba, coraggio e l'amore. Yeah.